Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun luogo lontano, il vostro sguardo al di fuori dei confini nazionali per capire che cosa accade ogni giorno. Con me ci sono Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli a confezionare la puntata di quest'oggi, Roberta Fisani a darle musica e ritmo. Per interagire con noi, ovvero fare domande, commenti, critiche, suggestioni, gli sms al 349-238-6666, Twitter cercatemi, sono Giampaz, oppure Nessun Luogo 24, su Facebook la pagina è Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Allora, in questa puntata parliamo ancora una volta di immigrazione e andiamo in Macedonia. Come sentite, altissima la tensione al confine fra Macedonia e Grecia. Siamo nei pressi della città e della stazione ferroviaria di Gevgelia. Ieri la Macedonia, il governo di Skopje, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha schierato l'esercito a difesa del confine. Stanno anche erigendo del filo spinato per bloccare le migliaia di migranti che stavano tentando il transito nel paese balcanico. Ma dai suoni che avete udito, la polizia ha iniziato anche a respingere i migranti utilizzando gas lacrimogeni, bombe assordanti e notizia diramata da MSF, stanno in questo momento i medici appunto dell'organizzazione Medici Senza Frontiere, stanno curando alcuni feriti dalle schegge appunto di queste granate assordanti. Per capire meglio che cosa sta accadendo, andiamo in diretta al confine greco-macedone con Eloisa Dorsi, fotogiornalista freelance. L'abbiamo già ospitata nelle scorse puntate quando era di ritorno dall'isoletta di Lesbos, a seguire sempre la stessa storia, cioè il flusso di migranti, soprattutto siriani, che stanno tentando di entrare in Europa. Eloisa, buongiorno, ben ritrovata, Nessun luogo lontano. Ciao Giampaolo. Allora, esattamente dove ti trovi, Eloisa? Mi trovo esattamente al confine tra Idomeni e Gevgelia, dove appunto l'esercito macedone si è schierato per impedire il passaggio delle migliaia di persone che si sono riversate in questo momento al confine. Sono cominciate ad arrivare da mesi, però appunto dall'altro ieri hanno chiuso, per cui semplicemente adesso non si passa più e le persone si stanno accumulando. E adesso la situazione è peggiorata perché sono arrivate dei traghetti con 2.800 persone che provenivano appunto dalle varie isole di Lesbos, Samos, eccetera, sì. E che hanno fatto arrivare ad Atene. Da Atene le hanno portate in pullman fino qui e adesso sono in migliaia e si stanno in questo momento mettendo uno sull'altro per cercare di sfondare il confine. Di sì. Fatto, questa è la situazione in questo momento, migliaia di persone di fronte ai miei occhi, non so bene come finirà, ecco. Sì. Dai video, dalle foto che iniziano a circolare e anche quelle che tu stai postando su Instagram, ricordo intanto che i lavori di Eloisa li potete vedere su eloisadorsi.com, si vede l'esercito schierato. Sei riuscita a capire quanti uomini Skopje ha schierato su quel tratto di confine? Voglio dire, è una presenza militare massiccia, molto visibile? Ma guarda, io adesso vedrò una trentina di jeep e ci saranno una cinquantina di soldati, ovviamente assolutamente inutili per contrastare un flusso di persone così massiccio. Questa mattina quello che è successo è che hanno cercato di sfondare il confine e la polizia ha caricato, appunto i militari hanno caricato con dei manganelli, a quel punto degli iracheni hanno tirato una sassaiola, hanno cominciato a tirare delle pietre e a quel punto i militari hanno risposto appunto con queste bombe assordanti, come dicevi, e sparando delle pallottole di gomma che hanno ferito varie persone. Ho parlato con uno degli iracheni che era stato, dei siriani che era stato colpito, perché sì. Di fatto non si sa bene perché alla fine sono stati colpiti dei siriani, che dicevano: siamo scappati da una guerra e ci ritroviamo feriti in un'altra guerra. Sì. Non sapevo cosa dirgli. Eloisa, il comportamento delle autorità greche invece, perché fondamentalmente i migranti adesso sono sul suolo greco e cercano di entrare in quello macedone, c'è una presenza di militari o di polizia di Atene? Stanno un pochino più lontano dal confine, nel senso che non ci sono, dall'altra parte del filo spinato non ci sono i poliziotti greci, ci sono soltanto i poliziotti un po' più in là, diciamo, che ogni tanto vengono, ti dicono di allontanarti. Io per esempio adesso sono salita su una cosa della luce per poter fare una foto e mi hanno fatto scendere, però al di là di quello, in questo momento ti segnalo che c'è un flusso di persone che si sta allontanando dal confine per cercare di aggirarlo, perché non c'è il filo spinato dall'altra parte, quindi in questo momento ci sono centinaia di persone che stanno lasciando appunto il confine, che di fatto è il pezzo di ferrovia dove non è sul filo spinato e che è controllato, e stanno cercando di passare dall'altra parte attraverso i campi. Quindi è una situazione... Quindi è un continuo tentativo di passaggio, ma mi sembra evidente che è una situazione che non può andare avanti, anche perché la gente è qui da 3 giorni senza cibo, senza acqua, senza assistenza medica, senza tende, senza saccapelli, sta dormendo per terra, in mezzo ai rifiuti, l'altro giorno ha piovuto, stasera faceva freddo. Non è sostenibile, quindi sicuramente qualcosa succederà. Io immagino che li faranno passare a gruppetti, perché tanto non hanno le forze per contrastarli e non possono rimanere qui. Peraltro la motivazione del dispositivo di sicurezza messo in atto da Skopje era, almeno sulla carta, proprio questo, cioè garantire un trattamento più umano a piccoli gruppi di migranti che dovrebbero transitare dalla Macedonia. Eloisa, nelle tue foto, ma non soltanto, si vedono anche tanti minori con famiglie. Ci sono tantissimi bambini, donne incinte, vecchi, c'è di tutto. Però non c'è nessun tipo di trattamento speciale assolutamente per nessuno. In questo momento l'esercito sta correndo verso questo gruppo di migranti che di fatto è riuscito a passare la frontiera dall'altra parte. Mi trovo un po' in mezzo. Sì, diciamo che stanno cercando di contrastare questo flusso, perché la gente corre da tutte le parti. Certo. Un po' di gente è riuscita a passare, li vedo di qua. Ecco, Eloisa, adesso ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio ovviamente a questa fase del lavoro piuttosto concitata. C'è qualcuno tra i migranti assiepato lì sulla frontiera che ha espressamente chiesto alle autorità macedoni di voler esercitare il diritto d'asilo, quindi in qualche modo costringere la Macedonia a farli entrare per poi chiedere asilo politico, o non hai sentito nessuna di queste richieste? No, non ho sentito nessuno, anche perché nessuno vuole rimanere qui. Grazie mille. Eloisa Dorsi, fotogiornalista freelance, seguitela su Instagram, su Twitter, eloisadorsi.com. Eloisa, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille Giampaolo, ciao. Questa è la fotografia in diretta dal confine greco-macedone. Siamo attorno alla città di Gevgelia, che è uno dei grandi imbuti di quella rotta balcanica che appunto attraversa i paesi della ex Jugoslavia. Un altro poi più a nord sarà la cittadina di Lojane nella zona di Kumanovo, e poi si entra in Serbia e poi ci sarà il muro, quello più alto finora eretto, quello al confine tra Serbia e Ungheria, che dovrebbe essere ultimato, se non lo è già stato, in queste ore, in questi giorni. Allora, Eloisa Dorsi faceva riferimento a una caratteristica della tappa macedone nel viaggio dei migranti. Devo anche ricordare però che la maggior parte di questi migranti sono rifugiati, quindi non cosiddetti migranti economici, perché quasi tutti provenienti dalla Siria. Dobbiamo ricordare una caratteristica della Macedonia. La Macedonia è un paese molto piccolo, 2 milioni di abitanti, solo mezzo milione stanno a Skopje, e da storicamente, da quando la rotta balcanica ha assunto maggiore importanza, quindi da circa 2 anni a questa parte, una tappa tanto che le autorità macedoni normalmente, quando i migranti entrano, li identificano, danno loro un permesso di soggiorno temporaneo che dura 72 ore. Entro queste 72 ore il migrante può chiedere asilo se lo vuole, altrimenti deve uscire dal paese. Normalmente i migranti vanno verso nord per poi entrare in Serbia e proseguire il loro viaggio, destinazione normalmente la Germania o il Nord Europa. Le immagini e le foto della violenza della polizia macedone hanno fatto il giro del web, e non solo. Sono immagini piuttosto dure, piuttosto forti. Avete sentito che ci sono anche molti bambini, donne incinta, ci sono feriti, non c'è sufficiente assistenza medica. Su quali confini si sta muovendo questa risposta macedone? Ci sono, c'è qualcosa di illegale? È corretto, al di là dell'uso della violenza, ma è corretto il tentativo di respingimento da un confine di un paese che non è Unione Europea, la Macedonia, verso la Grecia, che invece è un paese dell'Unione Europea? Ci soccorre nel rispondere in questa difficile domanda Gianfranco Schiavone, che è membro del direttivo nazionale dell'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione. Dottor Schiavone, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti. Allora, ci aiuti a capire meglio questa fattispecie di diritto internazionale, credo io. Allora, la Macedonia ha decretato lo stato di emergenza, ha schierato l'esercito, ha chiuso un confine. Non siamo dentro l'Unione Europea, non siamo dentro Schengen, ma abbiamo un paese dell'Unione Europea, la Grecia, che confina a nord con la Macedonia, che per adesso non è ancora nell'Unione Europea. Il flusso dei migranti è per la maggior parte composto da potenziali richiedenti asilo, perché sono quasi tutti siriani o afghani. C'è qualcosa di illegale, di irregolare nel comportamento delle autorità di Skopje? Anche Federica Mogherini ha detto: stiamo ricostruendo i fatti, stiamo cercando di capire se si stanno muovendo dei confini della legalità, del diritto internazionale. Secondo lei? Secondo me no, nel senso che ricordo che la Macedonia comunque fa parte del Consiglio dell'Unione Europea ed è vincolata al rispetto di molti trattati, tra cui prima di tutto la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che appunto la Macedonia ha sottoscritto, e i protocolli aggiuntivi, per cui se il controllo delle sue frontiere può essere considerato legittimo e se può anche essere considerato legittimo l'allarme e lo stato di emergenza che la Macedonia ha decretato, non mi pare legittimo l'uso della forza nei confronti di persone inermi alla sua frontiera, ben sapendo che, e la Macedonia lo sa, lo ammette tra l'altro, e comunque in ogni caso, come lei ha detto, è un fatto notorio che si tratta di rifugiati a cui andrebbe garantita innanzitutto un'assistenza umanitaria, quindi se ci fosse una crisi umanitaria come c'è, no, la Macedonia dovrebbe riconoscerla, ma non può certamente esimersi dal fatto di non assistere queste persone e non certo di appunto respingerle a colpi di come sta facendo con sì, i gas lacrimogeni e bombe assordanti. Quindi il problema è che la Macedonia dovrebbe appunto assistere queste persone e dovrebbe comunque chiedere aiuto alla comunità internazionale, se lo ritiene, magari ha molti motivi per ritenerlo, che si trova a dover gestire una crisi umanitaria, però ripeto, di persone che, come lei ha detto giustamente, non hanno intenzioni ostili nei confronti della Macedonia, ma appunto sono persone in cerca di protezione e che non l'hanno trovata e non la possono trovare in Grecia, perché e quindi vengo qui al quesito che lei fa. La Grecia è un paese in cui è stata riconosciuta già da molti anni, ci sono delle sentenze della Corte di Strasburgo molto chiare, la presenza di carenze sistemiche rispetto alla capacità anche oggettiva, insomma, della Grecia di rispettare per l'appunto i suoi obblighi in materia di asilo, e quindi alcuni stati dell'Unione Europea sono stati anche condannati dalla Corte per violazione dell'articolo 3, quindi addirittura divieto di tortura, per il tentativo di rinviare verso la Grecia, in applicazione tra l'altro del regolamento Dublino, che non riguarda la Macedonia, ma qui quello che ci interessa dire è che la Corte ha riconosciuto che la Grecia non è un paese considerato sicuro per i rifugiati in questo momento, e quindi a maggior ragione la Macedonia non può non tenere conto di questa situazione. Ecco. Schiavone, per completezza di informazioni ricordiamo che il regolamento Dublino è quello che impone al potenziale richiedente asilo di espletare questa richiesta nel primo paese dell'Unione Europea che gli tocca, il che vuol dire la Grecia nella fattispecie, oppure l'Italia, che sono i due paesi che soffrono maggiormente del flusso dei migranti. Sì. Quindi in buona sostanza lei mi sta dicendo che sulla carta, vista la Convenzione di Ginevra, noi non si può respingere i rifugiati, si potrebbe respingere in un paese sicuro, cioè si potrebbe negare loro l'accesso, nella fattispecie nella Macedonia, dicendo restatene in Grecia perché in Grecia tu puoi espletare il tuo diritto d'asilo, ma varie sentenze, nonché la storia, ci hanno consegnato una situazione in Grecia che non consente l'espletazione di quel diritto d'asilo. Capisco bene? Sì, i due punti sono appunto quelli che ho citato, che lei ha però richiamato. Uno, in ogni caso qui c'è una incredibile carenza di assistenza umanitaria, anzi un'assenza totale di assenza umanitaria, e questo è inaccettabile. e secondo c'è appunto il fatto che la situazione in la Macedonia non può sostenere che tutte queste persone possano tranquillamente restare in Grecia, perché è stato più volte, no, riconosciuto l'impossibilità della Grecia appunto a occuparsi di un numero così alto di rifugiati. Quindi qua ci troviamo in una situazione veramente, veramente gravissima, che la Macedonia deve sicuramente cambiare questo atteggiamento, che chieda, come ha diritto di chiedere, aiuto alla comunità internazionale per gestire una situazione per lei difficile, sì, ma certamente entro i limiti della legalità e dell'umanità. È evidente che questa situazione, come altre che purtroppo si stanno verificando in Europa, che sono simili ma diverse, insomma, ma comunque che hanno tutti tratti comuni, mi sembra che indichi che siamo di fronte a una purtroppo generale crisi del sistema europeo di tutela dei diritti umani. Questo ci deve molto preoccupare. Sicuramente preoccupa anche una mancanza di lungimiranza, una gravissima, a mio parere, è una mia opinione personale, miopia nel non prevedere i flussi dei migranti. La rotta balcanica, io stesso da questo microfono l'anno scorso ripetevo che sarebbe cresciuta enormemente in numeri, bastava andare lì, come avevo fatto, ero andato in Serbia, sono stato in Macedonia 3 mesi fa ed era evidente che i numeri erano in crescita e tutti lo dicevano. E complice una rotta del Mediterraneo più pericolosa, più controllata e più difficile, più rischiosa, è evidente che la rotta dei Balcani si sta intensificando, ed è evidente che c'è un'impreparazione da parte degli stati di quella regione nell'affrontare appunto il flusso dell'immigrazione. Io ringrazio Gianfranco Schiavone, membro del direttivo nazionale dell'Associazione degli Studi Giuridici per l'Immigrazione. Buona giornata e buon lavoro, Schiavone. Grazie a tutti, buongiorno. Allora, 349-238-6666, Twitter, Nessun Luogo 24, oppure Giampaz, per commentare quello che sta accadendo in Macedonia, dove il governo di Skopje ha dichiarato lo stato di emergenza, ha schierato l'esercito, la notizia risale a ieri, mentre l'utilizzo della forza e della violenza è notizia, ai noi, di poche ore fa. Ce ne ha dato conto Eloisa Dorsi, fotografa freelance, che ha anche intervistato e ha sentito un po' di migranti, di rifugiati, appunto, che hanno vissuto le violenze da parte dell'esercito, ma ci raccontava, cosa molto molto interessante, che è stato eretto una parte di filo spinato per proteggere il confine macedone, ma proprio mentre parlava con noi in diretta un gruppo di alcune centinaia di migranti stava tentando di aggirarlo, seguiti ovviamente dalle forze dell'ordine. Questo è un po' il paradigma di quello che sta accadendo nei Balcani, di quello che storicamente accade nell'Unione Europea. Ci sono tentativi di chiudere le rotte, di tamponare, come se andassimo a infilare un dito in uno dei buchini della scolapasta, però i migranti vogliono passare lo stesso, i rifugiati soprattutto, perché quando si scappa da una guerra, si scappa da una guerra e non c'è rete o filo spinato che tenga. E il risultato che stiamo ottenendo, ma qui è una mia lettura, una mia opinione, opinabile se volete, è di andare a mettere delle toppe ma non risolvere il problema. Non c'è una visione globale, non c'è una visione dell'Europa che si vuole avere da qui a 10-15 anni. Così le rotte cambiano continuamente, si allungano normalmente. Questa miopia, questa costruzione dei muri non ferma il flusso migratorio, semplicemente lo allunga, lo rende più pericoloso e molte volte fa andare più soldi nelle tasche dei trafficanti di uomini, che sono coloro poi che soprattutto nella rotta balcanica vanno a corrompere la polizia o trovano altre strade nei boschi o comunque fanno soldi sui migranti. Questa, così per prevenire anche qualche sms che sono certo che arriverà dicendo Musumeci sei un buonista, non vuole essere un discorso buonista, è semplicemente un discorso iper pragmatico, cioè seguiamo il flusso di denaro. Il solo Mediterraneo vale per i trafficanti di uomini 600 milioni di euro l'anno, i Balcani alcune milioni di euro l'anno. Ebbene, se non vogliamo fare un discorso umanitario, almeno dovremmo fare un discorso economico, cioè non permettere che fiumi di denaro in nero finiscano nelle tasche di non si sa chi. Questo era un mio personalissimo commento. C'era chi invece al 349-238-6666, come Antonio da Como, diceva, chiede una riflessione: non sarà comunque arrestabile il fenomeno di immigrazione in Europa, dice il nostro ascoltatore, volontario o provocato che sia, la barca Europa affonderà sotto il peso dell'immigrazione massiccia. Noi, come tutti i paesi europei, abbiamo combattuto per la nostra libertà e democrazia con centinaia di migliaia di morti. Perché non lo fanno anche loro contro i loro oppressori? Beh, gentilissimo Antonio da Como, io credo che in Siria siano morti in tanti, in tantissimi, forse anche troppi, e quindi sul caso siriano, francamente, io credo che i siriani abbiano combattuto e stiano combattendo una sanguinosissima guerra civile, quindi francamente non capisco la riflessione su quantomeno la realtà siriana. E poi c'è Gaetano da Foggia che dice: l'Europa, il trattato di Dublino e la Macedonia nelle condizioni in cui è dovrebbe accogliere i rifugiati. Viva l'Europa, chiude, immagino, sarcastico Gaetano da Foggia. No, ma infatti la Macedonia dovrebbe accoglierli, ma come raccontavo all'inizio della trasmissione, la Macedonia è un piccolo paese che è semplicemente una tappa di passaggio, perché come vi ho più volte raccontato proprio da questo microfono, la maggior parte dei rifugiati punta al nord Europa, punta soprattutto alla Germania, alla Gran Bretagna, al Regno Unito, ma anche a Norvegia e Svezia. Proprio in Germania andremo più tardi nel proseguo della trasmissione, che è un po' la destinazione finale di tante di queste persone che vi stiamo, la cui vita vi stiamo raccontando in queste trasmissioni. E poi ancora Angelo che rincara la dose e dice: la Grecia li fa entrare, la Macedonia non se ne dovrebbe fare carico, ma non fateci ridere, se la Grecia li accoglie è lei che se ne deve occupare. Ma carissimo Angelo, come ha sentito anche dall'esperto giurista, la Grecia è stata condannata più volte anche per pratiche assolutamente illegali, respingimenti, affondamenti di barconi. La Grecia da sempre detiene la maglia nera per la concessione del diritto d'asilo, e in ogni caso, vista la crisi politica e la crisi economica, non è certamente un luogo di destinazione dove un rifugiato siriano può pensare di ricostruirsi una vita. E poi c'è sempre da considerare l'effetto centripeto di una diaspora, di una comunità siriana già presente magari in Germania. È chiaro che i siriani cercheranno di raggiungere amici, colleghi e familiari nel tentativo di ricostruirsi una vita. Allora, adesso vi propongo un piccolo passo indietro, perché vi ho citato l'isola greca di Lesbos, l'isola greca di Kos, perché la prima tappa europea di questa, ormai possiamo ribattezzarla così senza tema di essere troppo retorici o senza sconfinare il patetico, è una vera propria odissea: la piccola isola, piccola si fa per dire, piccola isola di Kos, che dista pochi chilometri dalla costa turca. Lì è da quasi un mese Fabrizio Polacco, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Polacco, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a te, buongiorno a voi tutti. Io ti parlo dal balcone dell'appartamento, piccolo appartamento, da qui da oltre un mese sto seguendo veramente come su un grande schermo, su una grande carta geografica, quello che sta avvenendo qui a Kos, perché mi trovo esattamente all'imbocco del porto, là dove per esempio due giorni fa è partita una grossa nave carica di 2000 profughi siriani in direzione di Salonicco, e quindi tu sai che Salonicco è la prima tappa da cui poi si raggiunge attraverso la valle del Vardar Skopje, quindi la Macedonia. E di fronte a me c'è la Turchia, c'è quindi un continente al di là del mare, e è un continente che si sta muovendo, perché qui arrivano non solo siriani ma anche afghani, anche pakistani. E alla mia sinistra, dove ci sono le spiagge appena fuori dalla città, c'è lo stretto braccio di mare che fa sì che Kos sia una meta privilegiata da queste masse di persone in movimento, perché è un canale di appena 4 chilometri. Tu pensa che l'altro giorno sono andato a Bodrum, che sì, è la cittadina turca, il porto turco, là, certo, esatto, e il biglietto di andata costa solo 5 euro, 5 euro andare, 5 euro tornare, proprio per far capire quanto siamo vicini, sì, e quanto sia facile passare. Ma come mi ha detto un ragazzo siriano con cui ho parlato all'inizio proprio del mio soggiorno qui, a loro chiedono 1000 euro, sì, e ci provano più volte, a volte anche rischiando la vita, perché comunque anche in un piccolo braccio di mare questo può succedere. I siriani si muovono a famiglie intere, sì, ovviamente, sì, mentre pakistani e afghani afghani sono tutti giovani uomini, sì. Ecco, sì, c'è anche una demografia, se vogliamo tracciare, no, una foto, che ci sono delle belle differenze tra i rifugiati siriani, gli afghani e i pakistani. Appunto, i siriani trovi spesso famiglie, trovi spesso bambini, poi vi racconterò la storia di una famiglia siriana. Gli afghani normalmente sono giovani, sono maschi e sono da soli, perché sono quelli che devono affrontare un viaggio lunghissimo, e parlo anche dei pakistani, sono quelli che poi dovranno cercare di rimandare in patria il denaro quando e se troveranno lavoro. Insomma, lì il progetto migratorio è differente. Ti interrompo un istante, Fabrizio Palacco, perché fra un attimo dobbiamo sentire l'informazione finanziaria, ma devo intanto rispondere un sms al 349-238-6666, al quale in parte hai già risposto anche tu, caro Fabrizio, perché l'ascoltatore ci dice: Musumeci, quando intendi seguire il flusso di denaro, intendi farlo fino in fondo o ti fermi allo sbarco? No, io personalmente per 2 anni e mezzo ho inseguito gli smuggler, i trafficanti di uomini, io e Andrea Di Nicola, un criminologo di Trento, e abbiamo cercato proprio di ricostruire anche la mappatura economica. Ebbene, la conclusione a cui siamo giunti è che tutti lucrano sul progetto migratorio. Fabrizio ci stava raccontando: il biglietto sul traghetto costa 5 euro per il rifugiato siriano, per esercitare un diritto riconosciuto dalla legge internazionale, che è il diritto d'asilo, è costretto a spendere 1000 euro. E lì è il grande paradosso di questa Europa, che non dà una risposta istituzionale ai richiedenti asilo, ma li mette nelle mani della criminalità organizzata. Qui io dico che l'Europa, è opinione mia, è responsabile, perché non dà una risposta istituzionale. Il vuoto legislativo, l'inazione europea, è riempito dalle reti dei criminali, dei trafficanti di uomini, che, come avete sentito da Fabrizio Polacco, non hanno problemi a chiedere 1000 euro a ogni siriano che viene traghettato. Fabrizio, stai con noi, stai lì al balcone ancora a osservare la situazione a costo. Torniamo tra pochissimo con te. Adesso l'informazione finanziaria. Nessun luogo è lontano. Ancora nessun luogo lontano, ancora sull'isoletta di Kos, isola greca di fronte alla costa turca. È lì da un mese Fabrizio Polacco, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, e che ha osservato pure per 30 lunghi giorni quello che è il flusso degli arrivi. Fabrizio, hai notato in questo mese di osservazione dei picchi, delle tendenze che stanno nascendo? Cioè, c'è una direzione secondo te che sta prendendo questo flusso, ovvero è in crescita dal tuo punto di vista, o che cosa ci puoi raccontare? Guarda, il flusso si mantiene intenso e regolare. Ha raggiunto un acme prima di Ferragosto, nel senso delle presenze qui a Kos, perché fino ad allora siamo rimasti con le vecchie procedure burocratiche e la debolissima struttura amministrativa di quella che è un piccolo comune dell'Egeo, calcola che sono 30.000 abitanti nei mesi invernali, e quindi ciò ha provocato un accumulo di profughi, i quali andavano ad accamparsi in qualunque luogo, in qualunque aiuola, nei luoghi archeologici di cui la città è piena, all'ombra dei bastioni del grande castello dei cavalieri che domina qui l'accesso al porto. E questo provocava naturalmente una curiosa situazione, perché convivevano qui due mondi: quello dei giovani turisti dell'Europa del Nord, soprattutto dei paesi scandinavi e dell'Europa dell'Est, e di questi gruppi foltissimi di afghani, pakistani, che passeggiavano negli stessi viali, nello stesso marciapiede, sfiorandosi, guardandosi, senza peraltro interagire. Questo era molto strano, perché i profughi di qui tendono tuttora a stare molto per i fatti loro, a dare il minimo fastidio possibile, quasi a voler passare inosservati, ma era un dato di fatto che la cittadina era piena di questi piccoli accampamenti, e l'apice si è raggiunto proprio prima di Ferragosto, quando le autorità locali hanno deciso di sgombrare tutti questi, i giornali locali li chiamano bivacchi, ma insomma è gente che dorme su fogli di cartone, su materassini, direttamente per terra. Hanno deciso di sgombrarli, di portarli in un grande stadio in disuso, e lì sono avvenuti i tafferugli di cui hanno parlato tutti i giornali. Poi si è cambiata linea, li si è messi ordinatamente lungo uno dei grandi viali vicino al porto, e soprattutto la Grecia è, come sai, dispone di una delle più grandi flotte al mondo, sì. Si è scelto di far venire questa enorme nave, la Venizelos, dove ben 2000 di loro sono stati caricati e ora spediti a Salonicco. Sì, ma sì. La cosa che più colpisce e più preoccupa è quello che dicevi tu prima, cioè la differenza tra i siriani e gli altri, gli afghani e i pakistani. Io ho parlato ieri in uno stentatissimo inglese con due ragazzi afghani molto giovani, i quali non capivano, dicevano: ma perché i siriani sono stati fatti salire, sono stati fatti certo. uscire da quest'isola, e noi no, noi stiamo qui e non capiamo perché. E poi magari uno dei più grandi quotidiani greci, Katimerini, spiega sì. che ecco, non ci sono posti sui traghetti, che c'è un afflusso turistico, insomma, però la sì. situazione è critica, è certo, è critica perché da questo punto di vista. Fabrizio, così rispondo anche, e ti ringrazio intanto per questa tua corrispondenza, Fabrizio Polacco, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, grazie mille, buona giornata e grazie, buon proseguimento di lavoro, Fabrizio. E così rispondo anche appunto ad alcuni ascoltatori che dicono: vabbè, ma perché non stanno in Grecia? La Grecia non è in grado di dare assistenza agli immigrati, l'Italia lo è. L'Italia si trova un gradino sotto la Grecia, così dice un ascoltatore, che conclude dicendo: se tutti vanno in Germania a vincere le prossime elezioni tedesche saranno i nazisti, paventando così questa crescita della destra estrema nel nord Europa. Allora, poi c'è un provocatorio messaggio al 349-238-6666, Luca da Cagliari, che mi dice: visto che sei bravo ad accusare i responsabili, perché non ci illumini sulla risoluzione pratica, tenendo conto di tutti i fattori, non solo quelli che ti fanno comodo? Mettiti nei panni dei responsabili dell'Unione Europea. Allora, io non sto accusando i responsabili, sto fotografando una situazione. L'Europa è assolutamente incapace di gestire il dossier immigrazione, questo lo dicono i numeri, lo dicono le foto, non è un'accusa. Illuminarvi sulla risoluzione è lungi da me, il mio lavoro è raccontare i fatti, il lavoro dei politici è risolvere i problemi, è molto diverso. È come se io mi lamentassi che ho la gamba rotta e dico: beh, ma come, giornalista, non riesce a curarmi una gamba rotta? No, è il medico che mi deve curare la gamba rotta, quindi ognuno deve fare il suo mestiere e deve cercare di farlo a meglio. E per continuare a rispondere a Luca di Cagliari, non ci sono fattori che mi fanno accomodo sul dossier immigrazione. Io non lucro sul dossier immigrazione, cerco di raccontare i fatti, non ho una qualche agenda nascosta, non ho un qualche politico di riferimento a cui devo dei favori o che so io, racconto semplicemente quello che vedo. Però è interessante invece quello che ha fatto un collega che si chiama Russell Chapman, che è un fotografo britannico che ha lavorato nel 2013 in Siria. Ha passato un mese ad Aleppo, nel mezzo della guerra civile, quando gli scontri purtroppo tuttora sono molto molto intensi, e ha aiutato una famiglia di 4 siriani a spostarsi da Atene e arrivare fino in Germania. Fondamentalmente quell'odissea che vi ho raccontato fino adesso, che vi ha raccontato Eloisa Dorsi, che vi ha raccontato Fabrizio Polacco, lui ha cercato di evitarla a questi 4 amici, gente che lui aveva conosciuto tramite un amico appunto ad Aleppo. Si è spogliato dei panni dei giornalista, evidentemente, e ha indossato quelli dell'attivista. È una storia interessante che ve la racconto, ma io la prima domanda che ho fatto a Russell Chapman, gli ho chiesto: beh, sei a tutti gli effetti un trafficante di migranti, sì o no? No, not at all, because all I did was... No, assolutamente. Un mio amico, Mohammed, che ho conosciuto quando ero ad Aleppo, mi ha detto che aveva degli amici che si preparavano a fuggire e mi ha chiesto se potevo aiutarli. Ho risposto che potevo provare. Così tutto ciò che ho fatto è stato guidare. Non gli ho fatto attraversare nessun confine. Lo hanno varcato da soli, a piedi, ogni frontiera. Io attraversavo il confine, li attendevo dall'altra parte e se riuscivano ad attraversarlo li portavo alla frontiera successiva. I trafficanti operano per un interesse economico. Il mio intento era quello di aiutare una famiglia e un amico con cui ho avuto un normale rapporto. Tutto questo era quindi per una finalità umanitaria. Allora, a questo punto la domanda che viene da fare a Russell Chapman è: e badate bene, probabilmente alcuni di voi avranno visto quel film documentario Io sto con la sposa, realizzato fra gli altri da Gabriele del Grande, in cui c'era questo impegno in prima linea di giornalisti che diventano attivisti e che aiutano dei siriani a arrivare fino in Nord Europa. È interessante, ho chiesto a Russell Chapman, vedere come a un certo punto un giornalista si faccia coinvolgere dalla storia su cui sta lavorando. Sentite. Quando vedi delle persone in una situazione simile e vuoi provare a fare qualcosa per aiutarli, rimani coinvolto, viaggi con loro e quando vedi le difficoltà che queste persone devono attraversare, vuoi aiutarle. Sai che non puoi farlo con tutti, non è possibile. Ma se puoi fare qualcosa per aiutare qualcuno, è una cosa buona. Qual è il limite allora per un giornalista? Sentite. C'è decisamente un confine, ma non è sempre facile definirlo con chiarezza, perché a volte uno resta davvero coinvolto dalla storia che sta raccontando e a volte devi mantenere una certa distanza nel nome dell'oggettività. Quando ho deciso di aiutare questa famiglia ci ho pensato molto. Non è una cosa che sono solito fare, né una cosa che avevo mai fatto prima. E onestamente non è una cosa che credo rifarò. È stata una situazione molto stressante. E adesso vi faccio sentire l'episodio forse più toccante e più stressante, appunto, come diceva Russell Chapman, in questo suo aiuto alla famiglia siriana. Sentite qual era la sua principale preoccupazione in questo continuo attraversamento di confini lì sulla rotta balcanica. The main fear actually was for the family. La mia preoccupazione in realtà era per la famiglia, che fossero catturati, perché conoscevo la situazione dell'attraversamento del confine tra la Serbia e l'Ungheria e sapevo che in ogni caso sarebbe stato estremamente difficile. Noi abbiamo raggiunto il confine durante una notte in cui ci sono state grandi operazioni di controllo da parte della polizia, su entrambi i lati del confine. Eravamo non lontani da Subotica, distante dal confine circa un chilometro. Quello che ho detto alla famiglia, dopo aver visto la situazione e la polizia, non conoscendo la zona, è stato: lasciate perdere, è una follia. Ma loro erano determinati a tentare, e lo fecero. E ad essere onesti, ho pensato che li avevo appena persi. Ho guidato attraverso il confine e li aspettavo ad una stazione di rifornimento quando ho visto alcuni rifugiati emergere dall'ombra alla luce della stazione di servizio. Pochi secondi dopo, due grossi poliziotti sono arrivati, brandendo i manganelli, pronti a colpire chiunque. Non ho visto la polizia colpire nessuno, ma si è creato il panico. I migranti hanno cominciato a fuggire, sparpagliandosi ovunque nella corsa. Quando ho visto questo, ho pensato che la famiglia fosse definitivamente perduta, che dovevo andarmene, non potevano avercela fatta. E poi ho ricevuto un messaggio in cui mi dicevano che mi stavano raggiungendo in taxi. Com'era possibile? Erano stati fermati dalle forze dell'ordine e portati alla stazione di polizia. Lì è il capo della polizia che decide se i migranti possono continuare o meno nel loro viaggio. E a loro ha detto che sembravano gente a posto e che se volevano potevano continuare. Per farlo però dovevano pagare 200 euro a testa. Hanno dovuto pagare 800 euro perché erano in quattro. Il servizio dei taxi, che è coinvolto assieme alla polizia, gli ha poi chiesto 100 euro per portarli un chilometro oltre il confine, alla stazione di benzina. Quando sono arrivati, sono letteralmente saltati dentro alla mia macchina e ce ne siamo andati. Quella fu una notte davvero terribile. Ero davvero preoccupato per loro. E questo è il racconto di Russell Chapman, questo fotografo britannico che, così coinvolto dalla storia, dal destino di alcuni siriani, ha deciso di diventare attivista e di aiutarli in questo transito, in questa odissea attraverso i Balcani e percorrere quelle strade sulle quali, avete sentito, tutti un po' cercano di farci la cresta, tutti un po' cercano di guadagnarci. Per quello, e rispondo velocissimamente a chi continua a dire che bisogna anche dare consigli alle autorità, beh, una cosa che non funziona, gentili ascoltatori, è erigere muri, perché quando si fanno i muri allora si esalta la corruzione della polizia di certi paesi, si esaltano i sotterfugi per passare i confini, le rotte si allungano e più soldi finiscono nelle mani dei figuri che ha tratteggiato, per esempio, Russell Chapman. Altre strade, l'informazione, e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. Ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, gentili ascoltatrici e ascoltatori. In questo viaggio in cui stiamo ancora una volta ripercorrendo la rotta balcanica dell'immigrazione, che sta diventando sempre più importante, i numeri li abbiamo dati ieri, nel solo mese di luglio sono sempre più massicci, stiamo arrivando in quella che è la destinazione finale per tanti rifugiati, per tanti siriani, che è appunto la Germania. Allo. Eisenhüttenstadt, 120 km east of Berlin on the Polish border. Così un documentario di Deutsche Welle va a svelare, va a indagare la vita dei rifugiati siriani una volta che arrivano appunto a Berlino e nei dintorni. Perché stiamo andando in Germania? Perché è notizia di un paio di giorni fa il fatto che Berlino ha annunciato che per il 2015 sono previste 800.000 richieste di asilo, un numero molto molto alto, superiore addirittura numeri che non si ricordavano dalla seconda guerra mondiale. Come la Germania gestisce le richieste di asilo? Con che tempi? Perché la maggior parte dei siriani, dei rifugiati, punta alla Germania? Ne parliamo con Ambros Weibel, che è giornalista del quotidiano Tageszeitung. Ambros, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno Gianpaolo, buongiorno. Allora, ciao. Intanto grazie per essere con noi, grazie della disponibilità. Allora, puoi sinteticamente e brevemente spiegarci come è gestita una richiesta di asilo in Germania? Ci vogliono tutti quei mesi che ci vogliono, ad esempio, in Italia, per fare il caso nostrano? Sì, diciamo, dipende dal gruppo di profughi al quale il profugo appartiene. Al momento abbiamo più del 90% dei siriani vengono accettati, viene accettato il diritto d'asilo. Invece l'altro gruppo grande che al momento sta venendo in Germania sono i profughi dei balcanici, dell'Albania, del Kosovo, sì. E loro dall'altra parte la quota è al più del 90% che devono ritornare. Quindi a cui non viene concesso il diritto d'asilo. Torneremo fra l'altro sul Kosovo, perché è una realtà che ai noi sforna continuamente potenziali rifugiati. Come la politica tedesca sta reagendo a questo numero annunciato di 800.000 appunto previsti nell'intero 2015? Che reazioni ci sono? Ma le reazioni sono ancora abbastanza calmi, diciamo, se non parliamo dell'unico partito, diciamo, che fa una propaganda xenofoba, che sarebbe il partito bavarese della CSU, il partito sorella della CDU della cancelliera Merkel. Le reazioni ancora sono abbastanza ragionevoli. Il ministro degli interni, Thomas de Maizière, quando ha pubblicato quel numero di 800.000 profughi di quest'anno, sì, ha detto che la Germania ce la può fare, ma non alla lunga. Non si capisce bene cosa voleva dire, ma comunque l'emergenza al momento non è tanto per la Germania o per i tedeschi, l'emergenza è più che altro per i profughi che devono dormire nelle tende, che i centri di accoglienza sono affollati, e il tempo finché hanno la sicurezza di poter stare in Germania diventa sempre più lungo. Sì. Fra l'altro questa dichiarazione del ministro segue quella della cancelliera Angela Merkel, che due giorni fa aveva detto attenzione perché il problema immigrazione è un problema che va gestito a livello europeo. E forse una delle prime volte in cui il cancelliere tedesco si lascia andare a dichiarazioni simili, perché fino adesso la Germania aveva snobbato le richieste, soprattutto italiane, di un coinvolgimento europeo della gestione del dossier immigrazione. Adesso, evidentemente, complici questi numeri che iniziano a divenire davvero importanti, sarà gioco forza, insomma, che il dossier diventi europeo e sia ripartito. Invece questo è il piano politico, Ambros, che hai fotografato con molta precisione e semplicità. E invece la società tedesca come reagisce a un crescente numero di arrivi? Ma sommariamente possiamo dire che la società tedesca è divisa. Io direi che un terzo della popolazione veramente accoglie i profughi con stima, anche con un engagement civile veramente bellissimo. C'è un altro terzo della popolazione che rimane un po' nell'aspettare, non reagendo, ma c'è anche un terzo della popolazione che è fortemente xenofoba, e sappiamo da una recente richiesta che la metà degli attentati xenofobi contro per esempio i centri di accoglienza succede nella Germania dell'Est, dove invece vive solo il 20% della popolazione tedesca. Così abbiamo abbiamo una situazione difficile da spiegare, ma ovviamente abbiamo delle regioni dove la vita per un profugo è più pericoloso che in altri. Sì. C'è allarmismo sui giornali tedeschi, cioè con che toni viene narrata l'immigrazione, che è un punto secondo me molto molto importante, perché fra l'altro io ricordo un editoriale apparso oggi sul blog del direttore di Al Jazeera English che diceva basta parlare di migranti, non dico nemmeno clandestini, attenzione, migranti, la strage nel Mediterraneo riguarda rifugiati perché la maggior parte sono siriani, eritrei, eccetera eccetera eccetera. Quindi, e l'editoriale di Al Jazeera, non sto parlando né dell'Unità né del Manifesto, così non mi diranno che ancora una volta che sono buonista, quindi Al Jazeera dice attenzione alle parole perché la discussione politica si basa sulle parole e attenzione a noi giornalisti perché è con le parole che noi alimentiamo un dibattito politico. Sì. Adesso non diremo più migranti, diciamo strage di rifugiati. I giornali tedeschi come utilizzano il linguaggio? Che lessico usano? Ma il lessico è abbastanza cauto e anche qui si trova questa separazione dei profughi, no? I siriani sono i buoni, sono i simpatici, ovviamente si sa che c'è una guerra civile crudele, i siriani poi dall'altra parte, anche i giornali hanno spiegato ai tedeschi che questi siriani spesso sono medici, sono scienziati, persone bene. Invece quando si parla dei profughi dal Kosovo, dall'Albania, qui c'è un grande sospetto che questi profughi non sono profughi ma sono immigrati che vengono, sono immigrati, si dice anche nei giornali, nel sistema sociale, nel sistema di assistenza sociale tedesco. Cioè, questo è un po' come scrivono i media su questo tema. Sì, sì. Fra l'altro ci siamo sentiti durante la giornata, abbiamo chiacchierato a lungo, mi ricordavi appunto nella chiacchierata di questo pomeriggio di una visita ufficiale dei governanti austriaci che sono andati ieri in un campo, credo Bad Kleinkirchheim, ecco. Sì. Perché dobbiamo ricordare che anche l'Austria ormai sta diventando in prima linea, lo metto tra virgolette questo termine ovviamente, certo. Nel flusso di migranti, perché molti di quelli che passano da quella rotta balcanica che vi ho raccontato poi dall'Ungheria arrivano in Austria. Ci racconti meglio questa realtà grazie alla visita del cancelliere? Il cancelliere Faymann è andato, adesso non mi ricordo bene se ieri o l'altro ieri, sì. Comunque è andato anche in questo campo di Treiskirchen, dove da tempo si leggono delle cose orribili, no? La gente dorme per strada, che non ci sono impianti igienici, non c'è ben niente. Lui c'è andato con la sua squadra governativa e alla fine ha detto: ma chi è responsabile per questa catastrofe qua? Non è possibile che un paese civile, un paese ricco come l'Austria, gestisce un centro di accoglienza per profughi, per gente che ha sofferto in questo modo. Invece diciamo la nostra cancelliera Merkel ha detto sì, che un giorno o l'altro andrà a visitare un centro di accoglienza. Ovviamente lei non ci va perché c'è un forte, come ho detto, c'è un forte movimento fra la popolazione, non sono solo, ovviamente ci sono anche i nazisti sì. In Germania, specialmente in Germania dell'Est, nella Sassonia ci sono e sono forti, ma non sono solo i nazisti, sono persone normali che per ragioni non ben spiegabili non odiano questi poveri, questa povera gente che viene in Germania. La cancelliera Merkel finora non ha voluto dare un simbolo veramente forte, sì, a chi lei vuole rivolgere la sua solidarietà. Se la sua solidarietà sta con i xenofobi tedeschi che forse la votano, o se la sua solidarietà sta con i profughi e con i molti tedeschi che vanno nei centri di accoglienza a aiutare, a dare delle cose ai bambini, ai vecchi, a tutta questa gente che viene da noi in speranza di una vita migliore. Certo, anche perché bisogna ricordare, Ambrose, che dall'anno prossimo inizia un periodo elettorale intenso per la Germania, ecco. E il dossier immigrazione è la più grande, formidabile leva elettorale che io conosca, francamente, perché puoi flirtare con le destre o puoi flirtare con le sinistre a seconda della chiusura o meno delle frontiere. Questo ovviamente è da tenere in considerazione. Io ringrazio infinitamente Ambrose Weibel del Tageszeitung per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, Ambrose. Buona giornata, grazie a voi. Grazie a te. Ciao, ciao. Velocissimo, prima di lanciare i titoli di coda, al 349-238-6666 c'è qualcuno che ancora chiede dove trovino tutti questi soldi gli immigrati. Allora, ci sono immigrati come i siriani, ci sono i borghesi, c'è gente che ha messo da parte dei soldi e se ne scappa, c'è gente che vende i terreni di famiglia, c'è gente che si indebita, ci sono villaggi interi che si indebitano per mandare un avamposto, per mandare qualcuno in Europa in cerca di fortuna. Allora, 16:58 minuti in questo esatto istante, titoli di coda. Quali ringrazio Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione con me anche per questa settimana e lo saranno anche per la prossima, l'ultima di programmazione di Nessun Luogo Lontano. Roberta Fisani che ha dato musica e ritmo anche questa puntata, voi che mi avete seguito in questo viaggio e che ritroverò lunedì di nuovo quando Nessun Luogo sarà lontano. Buon weekend da Giampaolo Musumeci.